Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti, ultimo martedì di diretta per Salva Danaio, poi ci ritroveremo l'ultima settimana di agosto, andremo in pausa anche noi per 3 settimane, ma saremo comunque ugualmente in vostra compagnia perché vi riproporremo le migliori puntate del corso che sono andate in onda appunto nel corso degli ultimi mesi. Il tema di oggi, allora, anche l'estate 2010 ha presentato alcune situazioni di difficoltà per alcuni viaggiatori, per alcuni turisti, prima era uno, poi da un paio di giorni sono diventati due i temi sui quali stanno concentrando l'attenzione gli operatori del settore, media e associazione dei consumatori. Allora, la prima vicenda alla quale abbiamo dedicato anche una puntata la scorsa settimana è stata l'istanza di fallimento per il tour operator Viaggi del Ventaglio, che è stata presentata una decina di giorni fa al Tribunale di Milano. E poi i disagi, questa è la vicenda che invece si è aggiunta negli ultimi giorni per numerosi passeggeri che nel fine settimana si sono imbattuti nello sciopero bianco dei controllori del traffico aereo in Grecia, i cosiddetti uomini radar. Ad essere particolarmente compromessa è stata l'operatività di Meridiana Fly, che presidia numerose tratte da e verso la Grecia, ma chiaramente il blocco del weekend con Atene ha messo in difficoltà anche i voli verso altre destinazioni, perché poi, come si sa, i disagi si trasformano sempre in un domino senza fine, soprattutto in periodi come questo, in cui ovviamente gli aeroporti sono affollatissimi. Ieri la compagnia aveva informato che una quindicina di voli avrebbero subito ritardi per i problemi con la Grecia, voli in partenza per la Grecia e per il Mar Rosso e di alcuni collegamenti anche verso le isole spagnole di Tenerife e Fuerteventura. Tutto tornato alla normalità, accanto a questi rallentamenti peraltro non c'è stata nessuna cancellazione di alcun volo. La questione è che proprio una ventina di giorni fa avevamo parlato del tema della vacanza in località a rischio, inteso in questo caso non come pericolo di chissà quale genere, ma in località che a causa della crisi finanziaria stanno sopportando qualche agitazione sociale. La Grecia negli ultimi mesi è stato un esempio lampante in questo senso. Insomma, nonostante le rassicurazioni che avevamo cercato di dare, abbiamo appreso da quello che è successo nel fine settimana che qualche rischio si corre. E poi è scoppiata la vicenda dei Viaggi del Ventaglio, tema sul quale siamo voluti ritornare perché dopo la puntata di settimana scorsa. Intanto siamo curiosi di scoprire se sono partite o meno quelle persone che ci avevano raccontato di aver prenotato una vacanza con questo tour operator e che a questo punto erano inevitabilmente preoccupate di non poterla più fare. E poi perché in questi giorni c'è anche scritto il presidente dell'associazione Amici Veri, formata da circa 3.000 soci ex vacanze nel mondo, che si è lamentato con noi dicendoci: ma insomma, noi siamo i più titolati a parlare di questa faccenda, dovete darci modo di farlo, e noi subito pronti, lo abbiamo convocato questa mattina, lo faremo chiacchierare con i nostri ascoltatori, ma abbiamo anche altri ospiti. Allora, il presidente di questa associazione si chiama Francesco Panzeri, lo saluto, non è ancora collegato telefonicamente con noi, chiedo scusa a Gaia perché in realtà ci eravamo messi d'accordo di chiamarlo più tardi, anzi no, ha avuto un problema, mi stanno comunicando adesso. C'è il presidente dell'associazione Dario Avelli, si è già collegato. Gaia, scusami, non avevo controllato le tue indicazioni. Detto questo, adesso il presidente dell'associazione Dario Avelli lo chiameremo. Francesco Panzeri è il vicepresidente dell'associazione Veri, non c'è. Detto questo, l'associazione ce l'abbiamo. Roberto Corbella, presidente della STOI, l'associazione dei tour operator italiani, che non vede l'ora che io vada in vacanza perché altrimenti continuerò a chiamarlo fino allo sfinimento. Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Stamattina abbiamo una puntata un po' concitata, come ha avuto modo di capire. E poi saluto e ringrazio di essere ritornato con noi a Salva Danaio l'avvocato Carmelo Calì, responsabile nazionale trasporti di Confconsumatori, e poi ha tanti altri incarichi in seno a questa associazione dei consumatori, ma soprattutto in questi giorni si sta dilettando proprio nel seguire le vicende di Viaggi del Ventaglio e di tutte le persone che hanno avuto qualche disagio andando in Grecia. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a lei e gli ascoltano. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre telefonate, oppure scriveteci al 349-238-6666. Di borse abbiamo già parlato nel giornale radio, per cui andremo molto rapidi su questo tema. Borse brillanti stamattina in Europa, ancora una volta tutti gli occhi sono puntati sulle banche, titoli bancari stamattina in avanzata perché dopo le rassicurazioni fornite dall'esito degli stress test, intorno ai quali peraltro continua ad imperversare la polemica perché perché in molti, lo ha fatto ieri il Financial Times, non si fidano sulle notizie, le comunicazioni fatte dalle banche per comunque guadagnarsi un po' la promozione rispetto a queste valutazioni. In ogni caso, oggi sono le trimestrali di UBS e Deutsche Bank a far volare le borse, con Parigi in avanzata di un punto, Francoforte più 0,54, Londra più 0,71 e naturalmente Milano, che ha molti titoli bancari sul principale listino, oggi chiaramente la regina della seduta, più 1,71% in questo momento il FTSE MIB. Unicredit più 5,5 punti, Mediobanca più 3,83, Banco Popolare più 3,71, Intesa più 3,50, Popolare di Milano più 3,45, Monte dei Paschi più 3,32, UbiBanca più 3,11%, Fondiaria più 3, Mediolanum più 2,31%, questo è il quadro della seduta, quindi i titoli bancari volano letteralmente. Segno meno invece per Luxottica, che ha comunicato la sua trimestrale ieri sera. Gli analisti hanno detto che è molto buona e il mercato penalizza, nonostante il gruppo abbia detto di mantenere il flusso cedolare, che è stato anche piuttosto consistente, quello distribuito agli azionisti, eppure il titolo perde 1,5 punti. Ha portato con sé anche Bulgari, che adesso migliora, meno 0,6%, Autogrill meno 1,38%. L'euro stamattina aveva riconquistato 1,30 sul dollaro, adesso va un pochino indietro, ma siamo comunque a 1,29,97. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di stamattina, sentiamo un po' in quali problemi stanno imbattendo i turisti in questo momento. Sembra non esserci pace per i turisti nell'estate 2010. Da un lato proseguono senza sosta le proteste che da mesi infiammano la Grecia per la dura manovra economica approvata dal governo. Dall'altro il più recente fallimento di Viaggi del Ventaglio, che ha trascinato con sé le controllate e i turisti che all'ultimo si sono visti cancellare il proprio viaggio. Per quanto riguarda la Grecia, nonostante i prezzi più bassi e le offerte proprio per attirare i turisti, il caos principale riguarda i voli. Lo sciopero dei controllori di volo proprio lo scorso weekend ha comportato non pochi disagi, tra cancellazioni e ritardi, che hanno coinvolto circa 8.000 passeggeri di Meridiana. Per chi viaggia verso le isole, dunque, e soprattutto verso Atene, è meglio prepararsi e sapere cosa può accadere, in particolare se si è scelto l'aereo. Rischiano invece di vedere le proprie vacanze andare in fumo tutti coloro che si erano affidati al tour operator Viaggi del Ventaglio, fallito un paio di settimane fa. La situazione in questo caso è più complessa e in via di definizione. Solo con il passare dei giorni sarà possibile capire cosa riserva il futuro ai viaggiatori già prenotati, a quelli in viaggio e a tutti quelli, circa 40.000, che sono possessori a vario titolo di formule d'usufrutto di soggiorni Ventaclub per 5, 10 e fino a 20 anni, tutti prepagati. 800 24 0024, numero verde a vostra disposizione per i vostri interventi, per le vostre domande, oppure scriveteci al 349 238 6666. Come sempre comincio con Roberto Corbella, presidente di ASTOI, l'associazione dei tour operator, tanto per capire se, presidente, siete stati tirati in ballo anche per i disagi del fine settimana dei turisti che sono andati in Grecia o che tentavano di ritornare dalla Grecia, ma hanno avuto qualche difficoltà per lo sciopero bianco? Gli uomini allora, radar? Siamo in alta stagione, quindi è chiaro che il numero di turisti in giro per il mondo è molto elevato e quindi c'è sempre qualcuno che può incappare in qualche inconveniente. Nella situazione della Grecia, come è stato detto, c'è stata questa manifestazione dei controllori di volo. La logica dello sciopero bianco, ricordiamolo, è quella di applicare il regolamento in maniera molto formale, molto rigorosa. Questo ha comportato quindi dei rallentamenti sui voli, non su tutti ovviamente, alcuni voli sono partiti in secondo programma, altri hanno subito dei rallentamenti anche significativi. Questo fenomeno ad ora è finito, io ho parlato anche con le autorità greche questa mattina, mi dicono che non sono previsti dei nuovi scioperi nei prossimi giorni, anzi prevedono che la situazione torni alla normalità. Certamente la Grecia, come tutti sappiamo, ha avuto una situazione economica molto critica, ci sono delle manovre impopolari in atto e questo ha fatto sì che alcune categorie hanno sentito il bisogno, la necessità di manifestare il loro dissenso. Però siccome il turismo è un tema fondamentale per la Grecia, la maggior parte di loro, anche tutti i nostri colleghi operatori greci, si sono mossi assieme al governo per far sì che questi fenomeni si interrompano e che venga garantita ai turisti una fruizione delle vacanze. E però insomma anche chi parte per questa bellissima nazione, io ho moltissimi colleghi che sono anche tornati da poco e non hanno avuto il benché minimo problema, anzi si sono goduti una vacanza splendida, hanno una abbronzatura invidiabile, l'importante è che si sappia che queste cose possono succedere. Il paese ha in questo momento un po' di disagio sociale per le riforme impopolari, per ridare un po' di fiato ai conti, e insomma questo è un rischio che si sa che si può correre. Però avvocato Carmelo Calì, abbiamo detto che ad essere particolarmente compromessa è stata l'operatività di Meridiana Fly, che ha numerose tratte da e verso la Grecia, e allora deve rispondere la compagnia per i disagi che i passeggeri hanno subito in questo frangente, secondo lei? Oppure, visto che insomma lo sciopero non mi risulta fosse stato annunciato, Meridiana magari può anche dire: ma insomma, questa è una causa che non è imputabile alla mia, non lo so, magari attività non svolta correttamente. E quindi, insomma, cosa state suggerendo? E se vi è capitato anche di dover assistere qualche vostro associato in questa situazione? Sì, guardi, innanzitutto diciamo, lo sciopero, secondo quanto previsto dal regolamento comunitario, è una delle cause di esclusione di responsabilità da parte della compagnia aerea, e quindi diciamo teoricamente la compagnia potrebbe opporre questa eccezione dicendo si è trattato di uno sciopero. Indubbiamente però subentrano tutta una serie di valutazioni successive. La prima cosa, ci troviamo di fronte, quindi per quello si capisce, ancora non si comprende se ci troviamo di fronte a delle cancellazioni o dei ritardi. In ogni caso la compagnia può, anche di fronte a circostanze eccezionali, essere esclusa da una responsabilità se dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il ritardo, o se era impossibile adottare delle misure per evitare il ritardo. Allora, in ogni caso bisogna innanzitutto capire se la compagnia, pur di fronte a uno sciopero proclamato all'ultimo momento, era in condizione di organizzare, e può darsi che poteva esserlo, per i passeggeri, delle soluzioni alternative. E quindi in questo caso vi può essere una responsabilità del vettore aereo, che può comunque concorrere rispetto a quella che poteva essere la proclamazione di un'agitazione all'ultimo momento, in un periodo qual è quello delle vacanze, e quindi in una condizione nella quale la compagnia potrebbe anche rivalersi su coloro che, nel momento in cui il passeggero ha l'azione soltanto nei confronti della compagnia da cui ha acquistato il biglietto, la compagnia a sua volta potrebbe rivolgersi nei confronti di chi ha la responsabilità di questo sciopero improvviso per essere tenuto indenne di quelli che sono i danni di cui i passeggeri chiederanno il ritardo. Insomma, abbiamo fatto però tutte le ipotesi, avvocato Calì. Mi sembra che in ogni caso tutto questo polverone non si stia sollevando. Ma diciamo che c'è stata una legittima protesta, e secondo me la questione non è chiusa, perché si potrà ritenere chiusa soltanto in cui si capirà effettivamente quello che è successo. E ripeto, siamo in un periodo estivo, e quindi in un periodo estivo non si proclama vacanze, e quindi c'è un'illegittimità in comportamento. Certo, questo è un aspetto rilevante, e però naturalmente la Grecia adesso particolarmente vulnerabile su questi temi. È chiaro che uno sciopero poi si proclama quando si vuole sollevare l'attenzione in maniera molto forte, quindi è chiaro che contro l'ora di volo, quale miglior periodo avrebbero potuto scegliere per farlo? Ma guardi, nessuno mette in dubbio i diritti dei lavoratori. No, ma infatti gli scioperi devono essere proclamati in modo da consentire a chiunque di programmare eventualmente le soluzioni anche alternative. Benissimo. Allora, avvocato, la ringrazio per queste considerazioni. Adesso apriremo la parentesi viaggi del ventaglio per fare un punto della situazione su queste situazioni. Aperte, non aperte, adesso lo verificheremo. Devo già andare in pausa, sentire le previsioni del tempo, un po' di pubblicità, e poi appunto andremo anche su questo argomento con il ribadisco, perché prima ho detto un po' di cose non corrette, il presidente dell'associazione Amici Veri, che sono gli irriducibili dei viaggi del ventaglio, di vacanze nel mondo, e che già da tempo sono in lotta con, se non ho capito male, il tour operator, perché già avevano capito evidentemente che da tempo qualcosa non andava, ma su questo punto ci siamo già soffermati lungamente settimana scorsa. Adesso ci interessa capire cosa stanno facendo per tutelare gli interessi dei propri associati. I problemi dei turisti in quest'estate 2010, per la verità, non sono moltissimi, per fortuna, però qualche situazione si è verificata, come quella di coloro che sono rimasti bloccati per esempio a Malpensa, perché non potevano partire, perché non partivano i voli di Meridiana a causa dello sciopero bianco degli uomini radar negli aeroporti greci, e poi siamo ritornati naturalmente sui viaggi del ventaglio dopo l'istanza di fallimento che è stata presentata al Tribunale di Milano. Naturalmente ci siamo posti il problema di coloro che sono rimasti che sono incappati appunto in questa disavventura. Abbiamo scoperto peraltro, prima di sentire adesso gli annunciati ospiti, il presidente dell'associazione Amici Veri e l'ascoltatrice che è pronta a raccontarci la sua esperienza, volevo ritornare anche al presidente di Astoi, Roberto Corbella, perché abbiamo fatto un punto anche su quanti turisti viaggi del ventaglio erano in giro per il mondo nel weekend del crack. Presidente, una trentina accertati insieme alla Farnesina? Allora, si ricorda, sono state una serie di voci girate, si sì, parlava di tantissimi 16.000 famiglie, eravamo partiti con proprio il terno al lotto, abbiamo fatto su, c'era stata magari una testata che aveva parlato di ben 16.000. Settimana scorsa, il giorno 22 luglio per l'esattezza, il curatore fallimentare del ventaglio ha fatto un comunicato nel quale indicava che nei giorni 24, 25, 26 luglio erano 31 i passeggeri all'estero che dovevano essere rimpatriati e che avrebbero fatto fronte con i fondi disponibili nel ventaglio per curare il rientro di questi passeggeri senza bisogno di nessun intervento. In effetti, nonostante la disponibilità data dai nostri associati alla Farnesina per assistere eventuali passeggeri abbandonati in giro, non abbiamo avuto ad oggi nessuna richiesta. Ecco. Questo mi fa piacere condividerlo, perché così questo allarme sì, rientra un po', insomma, è stata una situazione sicuramente seria e grave, ma non ha colpito per fortuna così tanti passeggeri. Ma noi stiamo parlando appunto di quelle persone che evidentemente avevano magari comprato un pacchetto qualche settimana prima e lì si sono trovati in questo fine settimana di difficoltà. Però c'è tutta un'altra partita nell'ambito dell'universo viaggi del ventaglio, e mi riferisco a quelle persone che hanno comprato o una multiproprietà legata a viaggi del ventaglio. Abbiamo sentito anche tante esperienze settimana scorsa di questo tipo, e questi possono essere tutelati in un certo modo. E poi ci sono invece coloro che hanno comprato dei pacchetti vacanza da poter utilizzare in un periodo di tempo lunghissimo, e qui parliamo proprio della tipologia particolare del socio vacanze del mondo. Presidente dell'associazione Amici Veri, Dario Avellis, buongiorno. Buongiorno a lei e a Radio Ascoltatori. Allora, io settimana scorsa, dopo aver fatto la puntata su viaggi del ventaglio, ho ricevuto questa accoratissima lettera del vicepresidente della vostra associazione, Francesco Panzeri, e la definisco accurata, perché in realtà ci ha detto, insomma, che abbiamo dato notizie sbagliate, perché come al solito, quando scoppiano questi casi, vengono a ribalta le associazioni dei consumatori, che non conoscono bene il problema, ma è chiaro che voi, essendoci dentro, essendo dei soci del tour operator, sapete bene come sono andate le cose. Detto questo, ci dice un po' precisamente quale tipo di viaggiatore rappresentate, insomma, quale socio rappresentate? Ma in sostanza, come ha detto lei, rappresentiamo quel viaggiatore che amava viaggiare avendo dei servizi sicuri, viaggiare anche bene, nel senso che adesso, al di là che ventaglio è fallita, siamo sempre stati trattati bene, ci trovavamo bene, altrimenti non ci saremmo fidalizzati per 10 o 20 anni. No, ma io questo, presidente, poi tra l'altro ci tenevo a dirlo, perché anche al termine della settimana scorsa io l'ho detto, 34 anni di vita di un tour operator che è stato il vanto del nostro paese, voglio dire, non è che si improvvisa un'attività di questo tipo, c'era una storia molto ben consolidata e tante persone che si sono state ampiamente soddisfatte in tutte le loro esigenze. Detto questo, qua c'è stata poi una situazione finanziaria, una gestione finanziaria che è andata in un'altra direzione ed è finita come faccio il parallelo a volte anche con Parmalat, che vendeva il latte continua ad essere venduto. Bravissima. Come succhi di frutta, eccetera. Detto con questo, la gestione finanziaria disastrosa ha portato altri problemi. Prego, la lascio concludere. No, certo, quello che dice lei è esattissimo. Una cosa che mi ha legato subito, parlando di Parmalat, visto che il vicepresidente, io non ero in Italia, per cui non potevo. Ha scritto lui, sì. Ero io, fortunatamente ero in vacanza con un altro tour operator, ma c'ero. Mi spiace anche perché ho sentito quei 31 passeggeri che avevano prenotato Ventaglia, che presumo siano stati soci Vacanze nel Mondo, perché ormai in questo periodo prenotavamo solo noi come ex soci, nonostante come... Non è detto, poi le faccio sentire un altro caso, però sì, prego. Perché le agenzie viaggio ormai non pubblicizzavano più il prodotto perché sapevano di rischiare, quindi tutti coloro che avevano prenotato lo facevano direttamente online, quindi o erano persone che non sapevano di questa crisi, ma ormai insomma, ma anche dico sotto questo punto di vista, anche per noi, quando siamo dei turisti o quando siamo degli acquirenti di qualcosa, dovremmo essere un attimino più gamati anche noi. Comunque, lo so, però insomma questo, purtroppo io sono rimasto anch'io dentro coinvolto in questa cosa. Lei ha comprato un pacchetto pluriennale? A dire ne ho comprati due, uno di 10 anni e uno di 5 anni. Ma la località è sempre la stessa, Presidente, oppure si allora, poteva scegliere? Le ultime prodotti che pubblicizzavano erano, li chiamavano free points, perché erano dei punti, per cui essendo dei punti uno li poteva utilizzare dove voleva. Più indietro negli anni, ad esempio, il primo pacchetto che avevo acquistato io invece era un pacchetto dove tu acquistavi come se fosse una specie di multiproprietà. Io l'avevo preso a Santo Domingo e per 10 anni avevo il diritto ad andare in quel villaggio avendo una suite a disposizione. Eccetera. Quanto ha fruito di questo secondo pacchetto, Presidente? In quello di 10 anni ne ho fruiti per 5. Però, insomma... Vabbè. Il peccato è che quello è quello dopo dei punti, che non ne ho fruito neanche uno. Senta, la posso interrompere un attimo? Perché su questa storia dei punti, che è interessante, vorrei sentire Maria Elisa da Roma, che credo abbia avuto la sua medesima esperienza. Maria Elisa. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Sì, io ho avuto esattamente questa esperienza, con una variante che non ho usufruito neanche di un punto, appunto, con un bisticcio di parole. Io ho comprato proprio in seguito a una esperienza positiva, anzi più di un'esperienza positiva con l'organizzazione, e proprio in Santo Domingo, che evidentemente il signore che mi ha preceduto conoscerà bene, c'era un'organizzazione molto dinamica, mi sono lasciata diciamo convincere. Poi una volta pagato tutto, per problemi che non sto a dire, non ho potuto usufruire. Lo scorso febbraio, fine febbraio, primi di marzo, ho chiamato tranquilla come una Pasqua per organizzare appunto un viaggio, un soggiorno, e mi sono sentita dire: no, se vuole le prenotiamo la vacanza, però niente punti. Come niente punti? Io l'ho pagato, è tutto pagato in anticipo. Mi sono data un po' da fare, anche perché, come dicevo alla persona che mi ha risposto al telefono, faccio il suo stesso mestiere, quindi mi sono data un po' da fare. È una collega, una giornalista, Maria Elisa. Sì, sono una giornalista, sì. E ho scoperto che nell'ambiente delle difficoltà del Ventaglio si sapeva da almeno di 2 anni. Ma sì, Maria Elisa, la Consob sta tenendo sotto controllo i bilanci dal 2005. Ecco. Ma insomma, uno non società è quotata, no per carità, no, si sa da molto più tempo, però ha garantito completamente la sua operatività fino a 3 giorni prima del crack. Vero, perché io a marzo non mi hanno dato, ho ricevuto una mail in cui mi si diceva che i punti erano sospesi, ecco. Tra l'altro una mail abbastanza equivoca, perché non si dicevano le cose come stavano. Nell'ambiente in realtà i tour operator eccetera sapevano, tant'è vero che avevano rallentato molto con il Ventaglio. Io poi ho fatto i passi che dovevo fare aderendo al concordato eccetera. Devo dire che ho anche ricevuto comunicazione di amici veri, all'associazione alla quale, dico in tutta sincerità, non ho aderito, perché nelle mail che amici veri mandano c'erano anche la possibilità, insomma mi sembravano delle promozioni di altre cose, cioè sì, lo sconto del 20% eccetera su pacchetti, mi sembrava una cosa ci facciamo raccontare adesso. No, Maria Elisa, mi scusi una cosa, lei ha detto ho aderito al concordato, cosa vuol dire? Ha già fatto l'insinuazione al passivo per far valere i suoi diritti? Sì, evidentemente per cercare di tutelare il mio credito, anche se so, perché mi è stato detto che sarà molto difficile. Va bene, Maria Elisa, grazie per la sua testimonianza che è stata anche piuttosto lunga. Presidente Avelli, se devo farla intervenire subito per capire un po' anche la modalità pratica della vostra attività, ma mi spiega proprio bene questa storia dei punti, perché io devo dire che non ho capito perfettamente il meccanismo che ci ha raccontato Maria Elisa, e soprattutto perché a marzo le hanno detto che non erano più utilizzabili. Mi sente? Sì, sì, sì. La storia era che uno acquistava un tot, vendevano a blocchi di punti in base ai soldi, nel senso che un punto era un euro, uno poteva comprare 2.000 punti, 3.000 punti, 5.000 punti, venivano venduti a blocchi, e c'era già di base una rivalutazione del 20%. Normalmente se tu compravi per 4.000 euro te ne davano per 5.000, questo era il vantaggio, quindi già di base avevi il 20% di guadagno. Questi punti potevano essere scalati quando si facevano le vacanze. Si poteva fare una vacanza da 5.000 euro, come una da 2.000, rimanevano 3.000 da consumare. Bravissimo. Ecco, perfetto. Bravissima. E quindi da marzo le risulta che non potesse essere più esercitabile questo diritto attraverso il sistema della raccolta punti? Allora, è giusto, è corretto, perché? Perché da marzo è partita la procedura di concordato fallimentare. Okay. Cioè, fino al giorno prima non c'è stata nessuna comunicazione. Il giorno prima è arrivata una comunicazione da Ventaglio che diceva: guardate che da oggi nei buoni club, che erano i buoni tipo quelli che avevamo noi, che avevamo fatto le vecchie formule, nei punti free points potranno più essere utilizzati da nessuna parte. E senta, vuole rispondere all'osservazione che faceva l'ascoltatrice, certo, sulla modalità? Perché, le spiego, noi quando siamo nati come Amici Veri, siamo nati perché volevamo, ci siamo messi insieme un gruppo di soci di tutta Italia tramite un forum, e mi ha detto: vediamo se possiamo fare qualcosa per aiutare Ventaglio. La nostra idea era partita per aiutare Ventaglio. Abbiamo fatto diverse, e per non perdere evidentemente anche tutto quello che avevate speso. No, certo, ovvio. Non siamo ipocriti, abbiamo investito vabbè, ma è anche giusto, legittimissimo. Ci trovavamo bene, però nello stesso momento mi ha detto: vediamo se possiamo aiutarli. Abbiamo avuto diversi incontri, a partire da Bruno Colombo che era il presidente, il manager, eccetera. Non siamo riusciti a trovare un accordo con loro che facesse in modo che ci dessero ancora la possibilità di viaggiare con loro. Noi eravamo stati molto semplici, avevamo detto: guardate, se ci mettete in condizioni di continuare a viaggiare con noi, i soci vacanze nel mondo sono 50-60 mila in Italia, tutti viaggiano con voi, fanno un fatturato di quasi 50 milioni di euro l'anno, capite che noi possiamo aiutarvi a stare a galla. Sembrerebbe che chi è entrato nella New Co, quindi il dottor Tattola, la dottoressa Morselli, il direttore commerciale Pellegrino, hanno scelto di metterci da parte. Non si è capito bene qual era la strategia appunto aziendale: eliminare 60.000 soci fidelizzati solo perché noi chiedevamo di farci viaggiare ancora in modo comunque privilegiato, diciamo così. La loro scelta è stata: no, meglio avere meno viaggiatori ma che quando viaggiano pagano tutto, certo, piuttosto che avere voi che comunque quando questa viaggiate, formula diciamo, insomma, non ha avuto un grandissimo successo, l'ha avuta negli anni felici, in questo momento non era più lo strumento vincente per portare avanti l'attività. Allora, io perché prima ho detto peraltro che contraddicendo quello che diceva l'ascoltatrice di Roma, che comunque l'operatività è stata garantita fino a praticamente 10 giorni fa, perché adesso vi faccio ascoltare due testimonianze, una che è la seconda puntata di una storia che era già partita nella scorsa settimana, nell'altra puntata, e un'altra invece di un ascoltatore che si è candidato volontariamente questa mattina a raccontarci che è appena tornato da una vacanza con Ventaglio ed è tornato pienamente soddisfatto, per cui insomma fino all'ultimo la compagnia ha tentato di accontentare tutti quanti i clienti. Prima di tornare agli altri ospiti, io voglio sentire Ennio da Bari, perché ci siamo affezionati alla sua causa. Lui ci aveva raccontato la settimana scorsa che doveva partire per la Calabria il 24, quindi sabato scorso, aveva finito di pagare, aveva pagato per la sua settimana di vacanza, sicuramente una spiaggia bellissima, appena 10 giorni prima, il 14, nessuno gli aveva detto che insomma la società stava tracollando. Ennio, noi eravamo preoccupatissimi per lei per questo fine settimana, ma ci rassicura, è riuscito a fare la sua vacanza? Salve, buongiorno a tutti innanzitutto. Certo, sì, sono ancora qui fino a sabato prossimo. Magicamente quel giorno lì che ci siamo sentiti nella trasmissione, all'improvviso, magicamente, il pomeriggio mi è arrivata, non so se per merito di Radio 24 a sto punto. No, ma io dire, non io avevo sentito loro il villaggio e non erano sicuri di poterla soddisfare. No, perché io quando ci siamo sentiti in quella trasmissione, che c'era la persona lì con voi che diceva che avendo pagato tutto potevo eventualmente chiedere al villaggio se poteva entrare con tutta la documentazione. Certo. Con tutto pagato, invece ho telefonato e mi hanno risposto di no. Però quindi, poi magicamente nel pomeriggio mi hanno chiamato loro, il villaggio direttamente, e mi ha detto: può venire. e poi il giorno dopo la ventaglio direttamente. Mi ha chiamato dicendo guardi, si può presentare, ma io non ho uno straccio di documento, niente, nel senso da parte della ventaglio. Dice no, non si preoccupi. Anche no, cioè, mi scusi Ennio, come non lei aveva pagato tutto quanto, non aveva nessuna documentazione che attestasse l'avvenuto pagamento della sua vacanza? Sì, tranne ma diciamo, come aveva prenotato la vacanza, mi scusi, con l'online oppure con una, no, con un'agenzia, non credo. No, direttamente con la ventaglio via telefono e dopo tutto lo scambio è avvenuto via email, diciamo. Vabbè, con, però qualche una documentazione stampando le mail aveva qualcosa che certificasse il traffico delle telefonate almeno. Era solo una mia documentazione che avevo personale, diciamo a livello di scambio di email, documentazione dei bonifici effettuati, ma da parte loro, diciamo tipo un voucher, un qualcosa di presentazione qui, niente. Io poi ho compilato qui il voucher all'ingresso. Insomma, però morale, Ennio, lei adesso poi magicamente, io non so se sia stato merito nostro, non lo credo affatto, credo che comunque poi siano state valutate tutte le singole situazioni, evidentemente questo villaggio era nelle condizioni di poterla soddisfare. Grazie, buone vacanze Ennio, grazie, siamo contenti per lei naturalmente. Grazie. Avvocato Calì, quindi come sente ci sono delle situazioni molto differenziate, poi vi faccio sentire anche Emilio da Milano, ci raccontava prima il Presidente dell'Associazione Amici Veri come funziona il sistema ventaglio, come funzionava almeno la raccolta dei punti per poter organizzarsi dei pacchetti da sfruttare quando si voleva, la multiproprietà e tante altre cose. Molti turisti, voi lo segnalate molto chiaramente anche nel vostro sito, che hanno sottoscritto questi contratti con i quali hanno acquistato pacchetti turistici per più anni, a volte lo hanno fatto anche sottoscrivendo contestualmente un contratto di finanziamento, un contratto di credito al consumo, e lo stanno ripagando a rate. E allora per queste persone come va a finire? Ma diciamo queste hanno una speranza di poter ottenere una sentenza con la quale viene dichiarato risolto per inadempimento il contratto principale che era quello della vacanza e anche di quello collegato che era il contratto di finanziamento che aveva sottoscritto il turista e che per esempio ancora sta pagando e quindi le cui rate sono in corso di scadenza e l'ipotesi del cosiddetto mutuo di scopo, cioè in cui il contraente, il consumatore stipula un contratto di finanziamento e quella somma va a essere destinata ad una determinata finalità. È un'ipotesi di questo tipo, secondo noi questa è la possibilità che hanno costoro che stanno pagando questi finanziamenti di avere risolto il contratto e quindi non avere oltre a danno la beffa, perché le vacanze ormai le hanno salutate definitivamente e resta però il problema grave del pagamento alla finanziaria, delle rate che bisogna corrispondere, perché la finanziaria vuole le somme pagate, che certamente ci sarebbero anche problemi in caso di mancato pagamento dell'iscrizione alle centrali rischi, eccetera. Quindi è una strada che noi consigliamo di percorrere in modo che si possa raggiungere questo obiettivo. Benissimo, allora poi ovviamente c'è sempre anche la speranza che riponiamo nel Fondo Nazionale di Garanzia, che è un tema al quale tiene molto il presidente di Astoi, Roberto Corbella, lo sentirò tra qualche istante. Adesso ancora ai viaggiatori più che soddisfatti di vacanze appena concluse e organizzate con ventaglio. Emilio da Milano, buongiorno. Ecco Emilio, buongiorno. Dove è andato di bello intanto? Ci faccia io soffrire un po'. Io sono andato a Marsalam, quindi in un Egitto, villaggio proposto dal ventaglio. Io sono un vecchio cliente ventaglio, non sapevo del concordato, ho prenotato tramite il sito internet. Non mi è stato detto nulla, però devo dire che ho acquistato un pacchetto di 14 giorni, quindi sono partito esattamente il lunedì prima della dichiarazione di fallimento del venerdì. Quindi praticamente appena tornato ha fatto questo viaggio 20 giorni fa, Emilio? Vabbè. No, sono tornato ieri da questo viaggio. Ecco. Quindi gli ultimi 14 giorni. Esatto, io sono proprio fresco. È partito con una società e se ne ritrova una che non c'è in pratica. Esatto, ci siamo trovati nella posizione dei falliti. Insomma, lì al villaggio la cosa è stata data in maniera molto soft, gli animatori sono rimasti senza lavoro e senza stipendio improvvisamente, ecco. Però sono rientrati con noi questa settimana, devo dire che hanno lavorato tutta settimana comunque garantendo l'animazione e ventaglio all'interno del villaggio in maniera encomiabile. Professionalissima, bene. Professionali, veramente. Noi abbiamo avuto da parte dell'albergo una comunicazione che avremmo potuto continuare comunque il soggiorno, che avrebbero, nonostante il fatto che Ventaglio non avesse onorato fino in fondo i debiti, loro comunque per non rovinarci la vacanza ci avrebbero comunque garantito l'assistenza, l'alloggio e tutto, e così è stato. e il volo di ritorno l'abbiamo trovato regolarmente. Forse l'unico inconveniente era combinato la Meridiana, che ha annullato un volo, ne ha creato un altro. Ma qua però, insomma, abbiamo avuto altri problemi con Meridiana. Quindi lei, oltre a aver viaggiato con Ventaglio, si è ritrovato anche nel fine settimana in cui Meridiana ha avuto questi disagi a causa dello sciopero, esatto, degli uomini radar, esatto, greci. Esatto. Vabbè, insomma, esatto, lei proprio non si accontenta mai. Ma no, ma però devo dirle, guardi, è stata una vacanza positiva, grazie a Ventaglio. Speriamo di vedere la nuova Ventaglio con la vabbè, qua ci vorrà un po' più di tempo. Grazie Emilio. Allora, prima di ritornare a fare un giro finale con gli ospiti di stamattina, Corbella, Calì e anche Avellis dell'associazione Amici Veri, vorrei anche sentire Danilo da Milano, perché proprio a questa associazione si rivolge. Danilo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io ho visitato da provincia di Parma, sono a Milano per lavoro. Ah, vabbè. Io volevo rivolgermi velocemente al presidente dell'associazione, perché sul sito loro, premetto che sono un socio 5&5 e Ventaglio. Sì, altra formula, sì, sì, sì, sì. Esatto. È la formula classica di viaggi, di vacanze nel mondo, credo, no? Sì, sì, esatto, sì, esatto. Per la parentesi, confermo tutto quello che hanno detto gli ascoltatori precedenti, la professionalità da parte di Ventaglio sempre e ovunque. Però ecco, Amici Veri magari dovrebbe, i numeri di telefono che sono sul sito non sono mai contattabili. Io adesso provvederò a registrarmi, perché ho visto che hanno anche delle convenzioni. Certo, così, è bene seguire quello che fanno. Esatto, è bene seguire quello che fanno. Però volevo avere un'opinione anche da parte del Presidente sui prossimi passi, quando ci sarà la nuova udienza a gennaio, perché entro 3 mesi prima, adesso non ricordo le scadenze precise, bisognerà... Allora, intanto c'è tempo fino al 19 dicembre per insinuarsi al passivo, dopodiché credo che la prossima prima udienza sull'istanza di fallimento sarà il 19 gennaio, un mese dopo, sì. Esatto, io sono già... mi sono già registrato col concordato sul sito del Tribunale e ricevo le comunicazioni direttamente dal liquidatore. Però ecco, sicuramente mi associerò a Amici Veri, perché è una cosa che ritengo giusta. Però sapere loro che cosa faranno, ecco. Grazie Danilo. Allora, grazie a lei. Presidente Avellis, adesso le do una sgridata. Prima di far partire in quarta il suo vicepresidente, che ci scrive che diciamo cose scorrette, che ci ha detto che non abbiamo fatto un bel lavoro. Allora, intanto voi sistemate il sito e seguite correttamente tutte le persone che sono associate e che vogliono associarsi. Me lo promette? Sicuramente, sarebbe controproducente per noi, anzi a noi spiace che succedano cose del genere. Devo dire la verità, i numeri di telefono spesso non sono raggiungibili, perché nonostante tutto chi ha messo in piedi questa associazione sono tutti volontari. Volontari e tutta gente, esatto, durante il giorno lavora. Di conseguenza, non è un'associazione dei consumatori, no, noi siamo un'associazione no profit, quindi non c'è nessun guadagno, non abbiamo... Le volevo anche rispondere alla signora di prima, che detto, ma io non mi sono iscritto a Amici Veri perché ho visto che fanno delle proposte come sì, se non, non mi aveva risposto viaggi. Già prima. Noi non vendiamo viaggi. Noi cosa abbiamo fatto? Quando a marzo Ventaglio ci ha praticamente chiuso la porta in faccia, abbiamo detto: signori, siamo degli irriducibili vacanzieri, come ha detto lei prima, troviamo il modo di far recuperare i soldi ai nostri soci, magari mettendoci in contatto con altri tour operator che ci possono fare delle offerte. Magari convertire i pacchetti già in mano. Presidente, io ho un minuto di tempo, però mi deve dire cosa avete intenzione di fare adesso, da qui a gennaio. È chiaro che da qui a gennaio chiederemo a tutti i nostri iscritti, ma anche a tutti i soci Vacanze del Mondo, di inserirsi nel fallimento come creditori, e poi chiederemo la possibilità di avere la delega per poter entrare poi in... Va bene, benissimo. Allora, noi tra l'altro ovviamente tra settembre, ottobre, novembre continueremo a seguire la vostra attività e ad assistere tutti questi malcapitati. Mi sembra veramente, poi tra l'altro anche con le modalità di offerta dei pacchetti turistici, proprio un classico caso di risparmio tradito. Quando è fallita Lehman Brothers c'era chi aveva le azioni, le obbligazioni, le polizze vita legate a Lehman Brothers, e qua è un po' lo stesso. Chi ha comprato un pacchetto con l'online, chi è quindi è totalmente contento, chi invece aveva il pacchetto pluriennale, che aveva la multiproprietà. Tante situazioni miste, sarà bene seguirle tutte quante attentamente. Presidente Corbella, 10 secondi per concludere, però glieli concedo, visto che l'ho fatta decantare lì dall'inizio senza poi più farla intervenire. Allora, concludo in bellezza dicendo che sono molto contento della trasmissione di oggi, perché emergono due cose. Altre non era contento, mi spiace. Pochi turisti che sono stati coinvolti nella situazione, e comunque tutti sono stati assistiti, anche il signore che abbiamo sentito l'altra settimana sta facendo le sue vacanze, quindi questo mi sembra il modo migliore per chiudere. Buone vacanze a tutti, affidatevi di tour operator, avete visto che anche in situazioni estreme di difficoltà c'è comunque un'attenzione da parte di tutto il comparto e tutto il sistema per minimizzare i disagi, e poi in fondo in Grecia, l'ha detto lei prima, esatto, rimane comunque una nostra battaglia che continueremo a fare. Mi raccomando. Per una polizza assicurativa al di là di tutto. Col ministro Brambilla bisogna lottare. Presidente Corbella, grazie a tutti. Buone vacanze a Roberto Corbella, all'avvocato Carmelo Calì, a Dario Avellis, presidente di Amici Veri. Noi ritorniamo con Salvadanaio domani. Buona giornata a tutti.